indicata e non riesce ad arrivare qua. Mario, mi ascolti? No, non sono stato attaccato un altro paracchino che non ce l'ha, gli c'è un altro lì. E poi pure, basta usare il clarifare. Volevo telefonare a Desiri per farmi dire come si fa a sbloccare la situazione dei paesi di Alfa, perché se no i canali Alfa non ce li ho in quell'altro. Era un po' che non hai telefonata. Dopo le feste la telefono, non mica la disturbo per... ma è il tecnico, non c'è. Già quando finiscono le feste la telefono, gli dico ascolta, ma non mi funziona la fare per girare i paesi nell'apparecchio. Così mi farà parlare col tecnico e mi spiega la situazione. Ti passerai i tecnici, dai. Sì, infatti, perché quello l'hanno bloccato loro. Oh, io non so se l'hanno bloccato o c'è qualche cosa da toccare. Vediamo se è riuscito Mario, ci sei. E deve aver salvato, va. Evidentemente sì. Vabbè signori, io mi saluto che è tardi, domani mattina sono andato a travagliare. Ci sentiamo alle prossime, dai. Io faccio pure, vado un po' di TV e poi speriamo di addormentarmi subito. Addirittura la trovo per spegnere il telefono. Cazzo, mi ha mandato prima a mancare a pelare i violi. Cazzo, la moglie era pulita la cara, ma gli ha fatto tutto un viaggio. Da voi, cazzo, che avevi da in chimica, ma è vero, non viaggio via di là, capo i cazzi. Cazzo, e io avevo un viaggio pronto al tribunale dei minorenni. Mi hanno fatto fare un culo e la metto a basta, va. Vabbè. Maggio dimenticato il bellissimo a luglio, cazzo, non metti il remo. E vabbè, dai. Ma per te, ancora domani a sera. Mi veniva a metà proprio, chi senza il bellissimo a luglio non andrà a nessun luogo, eh. Vabbè, dai, ci sentiamo, dai, e sto chiudendo. Ciao a tutti, buonanotte. Notte buona. Buonanotte, andiamo lì, dai, ci sentiamo. Quanto è che è rimasto? Facciamo appello, quanto è che è rimasto sul canale 19 Alfa? Avanti! Sono io! E tu? Poi c'è Antonio! Mario, non si sente più! Siamo sempre quelli che chiudiamo il programma, qua! E non tanto però! Io e Antonio siamo quelli proprio dell'ultimo grido. Sì, qualche volta già ce la tiro anch'io quando posso, perché sai, io ho anche qualcuno vicino e quindi devo dormire. Forse per me ce la tiro anche fino alle 3 del mattino. Io lo so, non so, vabbè, anch'io sono così, se viene mia moglie è ancora in casa e mi cado l'asso. Perché l'asso che disturba le orecchie di Roberto, ma le orecchie di mia moglie. Quando sei andato saluto tutti, tu smetti a fare fracassi con quella radio, ma che cosa tu? È una bella radio, però se tu ti decca ancora meglio. Ce l'ha col mio, il ricordo, ma la radio, che un po' insomma non lo devo fare. leggero e leggere. Ma no, ma la sua si è educato un tartarughino quando si intende in voce. Infatti, non è facile la legge. Non è la cinto io la voce. Ma non mi frega niente. Agli altri gli piace usare il tappa, gli piace usare questo, gli piace usare quell'altro. A me piace così. Infatti, ogni usa la sua. Stati per la tassa della parappa. Qua sinceramente sto aspettando, ho mandato l'email stamattina e non sono andato ancora a controllare, tra un poco la controllare la posta, a vedere se ho ricevuto indietro degli appunti, perché li aspettavo via email e ancora non li ho controllati, dopo li devo guardare se trovo risposta. Perché ci ha fatto il bollettino? Lo vorrei poi andare dove tornare a pagare la cauzione dell'aumento, va? Non lo so ancora, sempre che me l'abbiano mandato, ma tutte le volte che ho fatto la richiesta già me l'hanno mandata. Vedendo ci rimando la matessità, io il 2 la pago, la voi. 2 pago tutto. E perché poi se vengo a fare un controllo una cosa non è pagato, sono cacchio. Invece il 2, come faccio ogni anno, il primo giorno vado e pago tutto. Ora mai, guarda che per la legge hai 30 giorni di tempo, c'è il tempo fino al 30 di gennaio. Perché sono andato alla posta a prendere, ma ve ne era uno contatto. Ah, sta più vicino, dimmi. Io guardo, dimmi, se te lo trovo, io trovo. Cavagava. Io non manco che ci dovrebbero essere, perché lì si prende sempre un po' di ogni bollettino che quando serve poi ce l'ha a casa, se lo può fino a casa, capito? 12 euro, perché stavo leggendo così. Cosa, tu? Che 12 euro, perché stavo leggendo il foglio l'altro giorno ed è così anche quest'anno. Dai, 13 con la tassa forse. Anche tanto, fa 12 euro, se abbia il culo, tanto. Ti dura tutto l'anno. Non c'è problema, fosse stato tutto così, baratto, vero per fare, mollo, assicurazione, tutto 12 euro. Magari, ma non lo so, potrebbe esserci l'aumento, ogni tanto sono stati gli aumenti, adesso per esempio è 12 euro, che corrisponde quasi alle 24, prima era 15.000 lire, fino a quando era lire era 15.000 lire, poi da che è passato il euro è così. Da lì tu cosa metti in vista? Io metto sempre tesoreria dello Stato, eccetera, Cagliari, ecco, così metto tesoreria dello Stato o Cagliari. Sì, allora qui c'è il numero di conto corrente, no? Quindi lo sanno che è per loro. Non ne metti via Brenta, eccetera, eccetera, non lo metto. Io adesso devo vedere come lo faccio io. Io ce li ho quelli vecchi, no? Io metto tesoreria dello Stato, hai detto mentira, ma allora no, già devo guardare il bollettino, lo posso preciso ogni anno, io è sempre andato bene. Tesoreria dello Stato Cagliari, così io metto. Non mi metto mai io via, ma già lo trovo lo stesso, ragionamente c'è il numero di bollettino. Provinciale dello Stato, Cagliari, Giugi 5 su volta sì, 50-90. È così come metto io, dai. Più o meno così, così. Causale, retta, annuale, apparati di debole potenza. 27 MHz, così può buio. Io poco piano, mi hanno apparati, ma di elettrici debole potenza, fatti. Così io poco. Per l'anno 2010-2009, quell'anno ok, va. E va. E poi ci sono dei controcorrenti, non si sbaglia. Capito? Alla fine di lì. Infatti. Andavei come ci vorremmo. Quello lo basta a lasciare di là e tutto andavei, no? Ah no. Allora, io ho già acceso la televisione e spengo il tutto. Salutori a tutti e se non ci sentiamo, auguri di buon anno. Buon tutto. Io me ne passo il guerretti, ciao a tutti. Grazie altrettanto, Natalì. Trascorrerò bene anche tu, buon anno. Buon anno. Ci sentiamo. Sentiamo. Alle prossime. Avanti, per fare. Perché Natalì, no? Noi c'eravamo le notte. C'è di nuovo il... anzi, uno manca al perfetto, ma la notte c'è il canzone, vedi? Siamo alla centrale. Quello. tu che lo fai al molo di Urbia, Sassa. Come contrario. Al molo che noi già a Cagliari. Sta bella quello di Alghea, guarda. Ci sono tanti, c'è Ruggeri, c'è Bernardo. Anch'io sono Bernardo. Non lo conosce Bernardo? Non lo conosco. Viva la mamma. Siete, sei passato due. La lì, la la. Cantando le canzoni di Bernardo, vabbè, dai. Cantando vi fa la mano. Sono il capitano Longino, di questa unità 9. Giurma, questo silenzio cos'è? Svegna, tutti a rapporto da me. Sono il capitano di questa lurida nave, sono il capitano Uncino. La sua band è composta da 25 persone, lo sai, poi c'è tutti i violoncelli, il chitarro, la sua band è composta da 25 persone. C'è la fanta, che bella, com'è bella la fanta come canzone, poi fa da da da da da da da da da perché vuoi registrare, maledetto. Sei la fanta, sei la stella, ma tu regina, fatta tu, non puoi pretendere di più. Registrato, hai contento? No, sto registrando. Oh, dice tanto non c'è domani, quindi lo facciamo adesso. No, non è proprio, no, cazzo è proprio. Comunque bella, poi c'è anche Ruggeri, invece a Olbia c'è. Quella. Canta tutti i bambini, amici. Non voglio dire Filippo. Comincia la pausina. No, fa mezzanotte. Infatti le prima mandiamo e dopo andiamo in due. Comunque fa anche un bello spettacolo. Chi? Laura Pausini. Sì, ero qui dove va di vento. Sai quante volte mi ha chiesto di portarla? Però noi dormiamo lì, non è che io ho possibilità di cercare a casa d'altri, se no anzi ti avrei portato, la verità. Avrei fatto sia a te che a me, che è la figlia di un amico mio, che me l'ha chiesto, che è partita, dirà la posizione, tu no, importa, mi ha detto io, guarda, io ti posso anche portare, però poi rimaniamo a dormire lì, io non lo so. Il posto non ce n'è, perché il mio cognato, oltre che invitare a noi, ha invitato anche una nuova amica col figlio, e quindi, sai, non è che ci possa questo posto. No, bruciare la divisione sul fuoco la sera, bruciare la gola fino alla stasera, ma io sto dicendo che muore di fino alla ora, io ti giuro la tempo sul tuo palco, la vera signora, vedi che c'è il tuo amico e si spavento, non è che la vera me soffra, voglio fuggire, fuggire di qua. La parata le mi stava vicino, guarda la comparita. Vado. Già, no. Non anda. Santo. Oh, ha detto poi meno anda. Non ti piace dalla posizione? No, non è. No, quello sì, caspettina. No, ha detto che non va l'atmosfera per cantare. Fa. No, ci vuole. Adesso ci vuole un regalato un atto di vino. Invece mi vuole imbriacarti di gusto. Ma un regalato 2, 3. Adesso mi devo dare quei 5 litri. Quelli però li devo pagare. C'è qualcuno che sta ancora piacendo, eh? Quello. Sì, mia madre. frega. Vabbè, non so, sono verino. Deve essere che la facciamo a Tamonte e poi li faccio la compagnia, capito? Pratica poi è molto lavato. Non si dà di base, dai. Poverina, troppo fresca la stasera. Beh, figurati, con la bassona, lo so. Ma l'unica è buscarne un altro, però dico una cosa, se lo prendi, prendilo già di un annetto, così non lo pigliare piccolo, perché se lo devi stare a abituarlo a fare la pipì lì, comincia a grattarti i mobili, invece se uno già educato, il gatto, ma fatelo dare qualcuno. Se non sento io, già te lo busco, non c'è problema, io dovrei entrare a lavorare, perché criticano i gatti e me lo chiedono spesso, ce n'è. Però bisogna vedere un po'. Poi c'è il gatto di casa, meglio di quello del giardino, perché se del giardino c'è sempre malattia, in casa no. Del giardino, è quello del giardino. E i gatti che stanno in giardino sono sempre pieni di malattie. Selvatico. problem. E infatti è trovato il consiglio del terzo figlio, la luna. Se ce n'è qualcuno se lo date. Fa poco, fa qualche giorno, una. Avevamo arrivato perché di razza, cioè bisogna anche favorire un po' anche quelli che non sono di razza, dai. Vabbè, vabbè. Io infatti li prendo, cioè mi piace un po' di non è che stai sentendo quello troppo. Per la bellezza, per la bellezza, diciamo sono più belli quelli di razza, quelli persiani, non è che non puoi dire che sono uguali agli europei. Non sono brutti, assolutamente no. A me gli animali mi piacciono tutti, no? Già lo sai, come sono fatto io. Però, a proposito, anche quello di Massimiliano, nonostante le cure, quello bianco che aveva è morto. Quello che aveva sottratto quella roba là. Capito, uno vabbè dispiace lo stesso, però ne ha tanti e si consola, la moglie si consola che con gli altri, ma quando ne hai uno ti affitto di specificare fortemente a quello lì, è già più brutto là. Sì, quello è, a quello che lui aveva non mi piaceva un sacco, era un bel bello. Sì, mi dice un bel, quanti ce ne saranno, ragazzi? Sentito, ho già detto, c'è un cacciatore vicino a casa sua che ha i cari per le libri, i cari per le pernici, stanno tutta la notte abbaiando, invece non riesco mai a dormire di notte. E sono pure attaccati, ha detto pure che il cane mangiore era lui. Che era l'animale più grosso che vede, dai, dai, a chi si dice posso capire due cani da caccia. A parte che questi cacciatori li tratta animali, la due bocca a mangiare, ma curriba, a fare, li trattano anche male, ma 30 cani che a me che vuole di utile. 30 cani, e 30 cani devono avere permesso però per tenerli, Detto che c'è un canile, c'è cazzo, un canile, tutta la notte cazzo, lo svegliano, dice quando sembra che si è addormentato, basta che c'è un piccolo rumore e comincia a baggiare, uno a baggiare, a baggiare, a baggiare. Ma già lo sai, se non è autorizzato, se poi abbia un certo numero, se può tenere pure, pure dichiarato un canile proprio, e se non ci sono le condizioni adatte non le può tenere. Io so solo una cosa che ha anche ragione, lui dice non me la devo prendere con gli animali, io vabbè sono intollerante con i cani, però non me la devo prendere con loro, me la devo prendere con un padrone. Due per i conigli, due per questo, due per l'altro, non so cosa c'ha, cani per i cinghiali, quelli per i cinghiali vanno a sì, a sì, tutti i gatti in greppa. Ma guarda, innanzitutto conosco bene la caccia e mi sembra incredibile che un cacciatore abbia un cane per questo, un cane per quell'altro, perché poi... Anche di uno, guarda, lo puoi non lo so come sia progetto così, non so cosa dire. Ha detto, cosa avresti fatto già, se avessi avuto 30 cani che ti abbaiano di notte? Ho detto, io gli animali li amo, però 30 cani che ti abbaiano tutta la notte mi darebbero fastidio anche a me. Buono anche da parte mia, ce la risentiamo già risentiamo l'indomani o la sera stessa, dai, per darci gli auguri. Buon anno, faccio una buona serata, ciao, buonanotte. Ciao, te la sera stessa forse non è possibile perché sono a Usi, ciao. Ciao, Gerardo, ci sentiremo più là. Ciao, buonanotte. Notte buona.